Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 8 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: la relazione del Presidente dell'Authority per l'Energia Alessandro Ortis, e parleremo infatti di energia, di prezzi della bolletta elettrica, della bolletta del gas e anche del petrolio, di quello che si chiama e che lo stesso Ortis ha ricordato essere il barile di carta, cioè quel petrolio che è solo frutto della speculazione finanziaria, non della domanda reale di barili, quindi di greggio. Poi passeremo anche a un dato che è uscito ieri in serata, infatti oggi in molti giornali, direi tutti ce l'avevano. Mi riferisco alle dichiarazioni dei redditi degli italiani del 2007, senza voler fare nessun populismo, qualunquismo, però insomma il dato è disarmante. 15.000 euro lordi per metà dei contribuenti, questo è quanto dichiarano di guadagnare i contribuenti italiani in un anno, e con l'80% dei contribuenti che non arriverebbe a 26.000 euro lordi l'anno. Ora, con tutte le difficoltà, e il dato tra l'altro essendo il 2007 non riguarda il periodo della crisi precedente alla crisi economico-finanziaria. Disarmante, perché insomma sapevamo che l'evasione in questo paese è molto alta, però quando poi le cose si vedono numeri alla mano cascano un po' le braccia, perché praticamente a essere ricchi sono soprattutto i pensionati. Poi i titoli di borsa e la borsa: più 0,85% il FTSE MIB, più 0,70% il FTSE All, Buzzi Unicem perde il 2,42%, Parmalat l'1,5% e Telecom l'1,25%, Intesa guadagna il 3,5% come Banco Popolare, il 3,20% guadagna Mediobanca, il 2,5% Luxottica e Unicredit, il 2,2% il Monte dei Paschi e Fiat, più 2% per CIR, più 1,80% per Fondiaria, Mediolanum, più 1,3% per Italcementi, più 1,2% per Prismian e Atlantia. Ancora euro su dollaro a quota 1,3954, ci occuperemo anche della presentazione del DPEF, del documento di programmazione economico-finanziaria alle parti sociali, quindi sindacati, Confindustria e altri soggetti, che avverrà, anzi è già praticamente in corso. E poi, oltre che della dichiarazione dei redditi degli italiani, anche delle entrate fiscali in netto calo. Qui sì che c'entra la crisi, perché buona parte è dovuta all'IVA e all'IRAP, ma anche di un'iniziativa presa per aiutare i più deboli, le fasce sociali più deboli. 349-238-6666 per gli sms, dicevo, le notizie in breve. Buone notizie sul fronte della benzina più che del petrolio. Il petrolio resta infatti a 60,4 dollari al barile. Per quello che riguarda invece la benzina, prezzi giù, alla Total a 1,268 euro al litro, diesel sotto 1,1 euro per tutti i marchi tranne la Tamoil. E da domani Auchan, il gruppo Auchan, la catena di grande distribuzione, lancia una nuova operazione pubblicitaria sui carburanti e preannuncia un ribasso su tutti i carburanti in vendita nelle 28 pompe, stazioni di servizio collegate ai propri ipermercati, ossia lancerà il gasolio a 999 al litro e la benzina a 1,199 euro. Sempre in calo l'Euribor a 3 mesi allo 0,98%, mentre il Dipartimento di Giustizia americano ha aperto un'inchiesta sui cosiddetti credit default swap, ossia i derivati con cui ci si proteggeva dall'eventuale fallimento di un'azienda, prodotto che molte volte abbiamo commentato. Nel frattempo, sempre dall'America, è uscito anche il dato su Goldman Sachs, utile da record del secondo trimestre, ossia 3 miliardi e 440 milioni di dollari contro i 3 miliardi però praticamente 650 previsti dagli analisti, 3,65 dollari previsti dagli analisti per azione. Ma la cosa più importante in questo utile di Goldman Sachs è che è il più alto nella storia della banca d'affari americana, e questo poi andrà anche indagato, cercheremo di farlo nei prossimi giorni, perché insomma con tutto quello che è successo, vedere che Goldman Sachs riesce a ottenere, a registrare un utile record, oggettivamente è una notizia inattesa. E buona notizia, e oggi forse potremmo anche, ma sì dai, introduciamo un animale che un po' che manca. Buona notizia della produzione industriale dell'Unione Europea a 16, perché in sostanza in l'area euro la produzione industriale è salita per la prima volta dall'agosto del 2008, più 0,5% rispetto al meno 1,4% di aprile, e quindi a maggio si è avuto il segno più. Chi ha avuto tra gli stati membri il segno più positivo è stata la Germania, più 3,7% nella produzione industriale, Francia più 2,6%, 11 paesi con segno meno, tra cui la Spagna, l'Italia, la Spagna addirittura meno 3%, l'Italia è rimasta stabile. Il nostro galletto che era un po' che mancava, benaugurante ci auguriamo, perché insomma vedere che la produzione industriale da più di un anno, da quasi un anno pesantemente in calo, torna a salire, potrebbe essere un segnale che la parte peggiore della crisi alle spalle, che stiamo lentamente ripercorrendo la risalita. Dalla produzione auto però non arrivano buone notizie, meno 35% nel primo trimestre. E adesso le note più dolenti. La Banca d'Italia ha fatto sapere che il debito italiano ha toccato un nuovo record, 1 miliardo 752 milioni di euro, ma soprattutto la cosa più importante è che le entrate fiscali sono calate ancora, 4 miliardi e mezzo in meno di euro nelle casse dello Stato nei primi 5 mesi. Inizia a essere pesante il calo delle entrate fiscali, meno 3,2%. Però per fortuna rispetto ai primi 3 mesi il calo nelle entrate fiscali rallenta, non è un gioco di parole, vuol dire che continuano a calare le entrate fiscali, ma non in maniera così consistente e con il passo che avevano nei primi mesi dell'anno. L'IVA ha perso il 10%, 4 miliardi e mezzo in meno, l'IRPEF tiene, l'IRES invece è giù del 10,7%. E l'Istat segnala consumi in calo soprattutto nel sud Italia, la spesa media per le famiglie è stata pari a 2.485 euro, ferma come nel 2007, il dato infatti sul 2008, però al netto dell'inflazione il calo è del 3,3%. Ed è il Veneto la regione in cui nel 2008 si è speso di più, la spesa mensile più elevata, 2.975 euro per famiglia. Segue la Lombardia, 2.930, l'Emilia Romagna, 2.854 euro per famiglia. La regione invece in cui si è speso di meno è la Sicilia, 1.742 euro per famiglia. Che cosa hanno speso gli italiani? La parte più consistente è destinata all'abitazione, il 27% quasi del reddito, ed è cresciuta non solo per il valore dell'affitto, ma anche per l'acqua, il condominio, le abitazioni, e anche le spese per gli altri beni e servizi, igiene personale, vacanze, mense, insomma, pari all'11%. E per quello che riguarda la tavola, si spende soprattutto per la carne, è la voce più alta, il 4,3%. Ancora sulla vicenda invece Fiat Magna. Che cosa? Non si capisce bene come stia andando. Scusate, la vicenda Fiat Opel e chiaramente Opel Magna. C'è più di un dubbio, voci, rumors, non si capisce molto di quello che sta capitando all'operazione, che sembrava conclusa, visto che i tedeschi avevano storto il naso all'ipotesi che gli italiani potessero comprare la Opel, e avevano preferito l'accordata austro-canadese e anche russa. Ebbene, da un lato ieri è arrivata la notizia che il fondo Ripplewood, o meglio la banca belga RHJ International, era disponibile a entrare, il consiglio di fabbrica della Opel si è schierato contro un eventuale ingresso. Nel frattempo però slitta l'accordo con Magna, e c'è chi vocifera, ma siamo nell'ipotesi delle voci, che potrebbe rientrare in campo anche la stessa Fiat. Vengo ripreso dagli ascoltatori perché non ho dato l'indice sulla fiducia degli investitori tedeschi, l'indice ZEV, va bene, mamma mia. L'indice ZEV è sceso a sorpresa, è vero, avete ragione, dai 44,8 punti di giugno a 39 punti e mezzo. È sorprendente perché era un po' di mesi che la fiducia degli investitori tedeschi saliva, e anche perché tutte le previsioni prevedevano un indice a 48 punti. Vedremo, speriamo che non sia un segnale di raffreddamento di questo tentativo di recupero anche dell'economia tedesca. Adesso però vorrei passare al primo tema, e mi riferisco all'energia e quindi alla relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'autorità per l'energia elettrica e per il gas. Eh sì, perché oggi il presidente Alessandro Ortis ha presentato i dati relativi all'ultimo anno di attività svolta. Si è parlato di tutto, di tariffe, di speculazione sul petrolio, di tariffe elettriche, di bollette complessive per le nostre famiglie e anche del bonus sull'energia. Allora vediamo di affrontare punto per punto i passaggi principali con lo stesso presidente dell'autorità per l'energia e il gas. Presidente Ortis in collegamento con noi, buonasera. Saluto lei e tutti gli ascoltatori. Allora andiamo ai primi dati che voi avete diffuso. Io inizierei dal petrolio, così diciamo dalla macro analisi dei temi dell'energia, scendiamo poi alle bollette di casa nostra. Lei ha parlato chiaramente di barili di carta, contrapponendoli ai barili, diciamo, quelli veri, quelli fatti di latta, non so quale sia il materiale esatto. C'è dubbio, sì. Qual è il ruolo che hanno sul prezzo del petrolio? La speculazione ha un ruolo importante, perché certamente ha portato i prezzi in un saliscendi che difficilmente può essere giustificato coi fondamentali dei prezzi, chiamiamoli industriali e commerciali, del petrolio. Quindi c'è ancora, esiste, l'abbiamo visto anche nel luglio scorso, un effetto e un impatto rilevante della speculazione. Quindi questo ha a sua volta influenza sulla nostra bilancia energetica, e in particolare sulle bollette di energia elettrica e gas di noi italiani, perché, ed europei, perché avendo un sistema energetico ancora fortemente dipendente dal petrolio, certamente risentiamo del saliscendi dei prezzi, tant'è che mi sono permesso anche di dire che lo tsunami dello scorso anno, che ha influenzato verso l'alto i prezzi, ci ha consentito di contro quest'anno di abbassare i prezzi di riferimento, e quindi abbiamo avuto un sollievo. Dobbiamo stare molto attenti a quello che succederà sul mercato nei prossimi mesi e nei prossimi anni, evidentemente. Questo per quello che riguarda, diciamo, la speculazione. Voi non avete quantificato, diciamo, l'impatto percentuale, non so, l'anno scorso, proprio in questo periodo, il petrolio toccò il record storico a $147 al barile, e poi scoprimmo che di buona parte di questi $147 erano speculazione, erano fondi americani non solo che non riuscivano più a trovare soddisfazione nei mercati azionari già traballanti, si buttavano sulle materie prime, erano fondi arabi e dei paesi produttori che vedevano il dollaro svalutarsi e quindi volevano portare sul prezzo del petrolio. Secondo lei, siamo su $100 di prezzo la componente speculativa, quant'è? Ma guardi, la forchetta è ampia, perché noi dobbiamo considerare che i prezzi, come dire, di immissione sul mercato, se noi facciamo i conti con i costi di estrazione, la ricerca, la produzione e via dicendo, arriviamo su $10 al barile, 20-25 per i giacimenti un po' più impegnativi, poco sopra, e quindi come dire, c'è uno spazio consistente tra i 147 che lei ha citato e anche fossero i 30-35 di origine. Questo è uno spazio nel quale si è inserita e si inserisce la speculazione. Ecco perché abbiamo sottolineato l'esigenza che questo mercato dei prodotti petroliferi diventi piano piano davvero un mercato, perché come si formano i prezzi oggi non possiamo dire che si formino in situazioni trasparenti e come dire, semplicemente legati alla domanda e offerta fisica del prodotto, e per cui sì, ci siamo anche compiaciuti del fatto che il Ministero dello Sviluppo Economico ci abbia invitato a fare un approfondimento su questo insieme, in modo da esaminare se ci fossero delle possibilità come voce europea unica, forte, di 500 milioni di consumatori, cittadini come noi siamo in Europa, di battere un colpo. Passiamo al tema dell'Italia inteso come reti, perché insomma la concorrenza di solito dovrebbe far bene. Voi avete anche detto che appunto approfondirete la proposta di realizzare una borsa del petrolio europea. Io non ci credo molto, secondo me l'Europa quando si tratta di energia si è sempre mossa in ordine sparso, comunque vedremo. Ma detto questo, a casa nostra lei ha detto che sulla realizzazione di reti e infrastrutture energetiche pesano anche procedure di autorizzazione troppo lunghe e un sistema legislativo, e anche le difficoltà del sistema legislativo che disciplina queste concessioni. Nel frattempo siete tornati a chiedere la separazione proprietaria tra Eni e Snam Rete Gas. Come si tengono assieme le due cose, presidente Ortis? Ma le tre cose che tre lei cose, ha citato, ragione. In realtà ci sono le tariffe per questi tipi di servizi, da monopolio tecnico naturale che sia, quindi le tariffe ci sono, i prezzi di remunerazione per questi investimenti, quelli giusti da tariffa e quelli veri, dicevo, che pagano i consumatori, ci sono, però nella parte, come dire, realizzativa alcuni ostacoli. Il primo è quello delle autorizzazioni. E su questo credo che l'intervento del governo e Parlamento sia stato tempestivo, perché con uno sblocca reti dovrebbe esserci un superamento di alcuni di questi ostacoli. Dall'altra parte c'è, per esempio, nel gas una frantumazione delle concessioni e degli ambiti su cui operano gli operatori, e quindi ecco, in questo settore un riordino delle aggregazioni e un sistema di compensazioni anche verso il termine della concessione che quindi impegni gli operatori a continuare gli investimenti fino alla fine della concessione sarebbe molto importante. Infine, certamente a nostro avviso la separazione di interessi tra chi gestisce reti da monopolio tecnico e naturale, alle quali devono necessariamente accedere tutti i concorrenti in gioco, e queste reti è bene a nostro avviso che siano neutre e non nelle mani di uno solo dei concorrenti in gioco. E quindi ecco, questi possono essere degli elementi che possono ostacolare lo sviluppo delle infrastrutture. Ripeto, su alcuni di questi è intervenuto il governo e il Parlamento, anche sulla frantumazione del sistema di distribuzione gas, e quindi confidiamo che si possa vedere uno sviluppo, come dire, infrastrutturale futuro più acceso. Aggiungo questo. Questo, Presidente, vale anche per le ex municipalizzate, che poi di fatto sono ancora completamente municipalizzate, cioè sono quotate spesso, ma si comportano ancora come delle municipalizzate. Infatti, ecco, la suddivisione eccessiva di questi ambiti, sono 300 gli operatori, e alcuni sono anche molto piccoli, può creare quell'ostacolo di cui dicevo prima. Ho ancora un paio di domande per lei, Presidente Ortis, quella che riguarda proprio i nostri portafogli e quindi le tariffe. Voi avete stimato, delle bollette che paghiamo come famiglie italiane, avete stimato in sostanza che le tariffe per quello che riguarda la luce per il 60% delle famiglie italiane siano sotto la media europea, mentre, se ho ben capito, Le imprese italiane nello stesso periodo, nel 2008, hanno pagato prezzi dell'energia elettrica più elevati rispetto alla media europea di circa il 25% in più. Ho capito bene? Sì, diciamo in generale questo. Per bassissimi consumi i prezzi nostri sono migliori della media europea. Per consumi che salgono verso famiglie che consumano di più e verso aziende che notoriamente consumano di più, ecco che i prezzi nostri sono sfavorevoli. Aggiungo che ho anche ricordato, per quanto riguarda le famiglie non proprio in condizioni economiche buone e quindi bisognose di interventi, che abbiamo introdotto anche il bonus elettrico e adesso anche quello del gas, proprio per consentire una spesa familiare più bassa. Dunque in generale possiamo dire che i prezzi della nostra energia elettrica, per esempio, sono più alti in genere di quelli europei, ma sono migliori per i bassi consumi. In fondo questo riflette quello che dicevo all'inizio, cioè noi abbiamo un sistema coperto da un mix molto petrolio dipendente, mentre il mix medio europeo ha anche altre componenti che consentono di avere un costo medio più alto. E qui c'è la variabile nucleare, però lei ha dichiarato oggi che quella è una variabile politica, una scelta politica, quindi l'autorità non fa politica, non vuole commentarlo e ha ricordato... Non c'è dubbio, noi sosteniamo che il sistema attuale è troppo petrolio dipendente. Sì, questo l'ha detto anche questa mattina. Ci devono essere delle opzioni che consentano così di muovere nel medio lungo termine verso soluzioni più convenienti e magari più vicine a quelle che sono le medie europee. Ecco, Presidente Ortis, oggi c'era presente anche il Presidente della Camera Gianfranco Fini, adesso ascolteremo alcuni dei suoi passaggi. Poco fa però il Ministro al sviluppo economico, Claudio Scajola, che si trovava nella centrale nucleare di Enel in Slovacchia, ha detto: la relazione dell'autorità dell'energia, cioè la sua relazione, è in alcune parti condivisibile, in altre mi pare che esuli dalle prerogative che deve avere l'autorità. Secondo lei perché, se posso chiederglielo? Ma non so esattamente quali siano i passaggi a cui il ministro Scajola si riferisce, quindi non sono in grado di risponderle sotto questo aspetto. Naturalmente cercheremo di capirlo. Va bene, ascoltiamo allora. Intanto ringrazio il Presidente dell'Autorità per l'Energia e il Gas, Alessandro Ortis, in collegamento con noi. Grazie, Presidente Ortis. Grazie a lei. E ascoltiamo il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, sulle misure da adottare, strutturali, misure urgenti, vista la criticità della situazione. La situazione dell'Italia, data la sua forte dipendenza dall'importazione di combustibili fossili, appare sempre più critica, sia per la pregressa rinuncia all'utilizzo dell'energia nucleare, sia per lo sfruttamento pressoché totale delle potenzialità idroelettriche e geotermiche. Ciò va detto, anche se vale la pena ricordare che proprio nel settore geotermico il nostro Paese detiene un primato mondiale per potenza installata e per il ricorso a tale tipo di fonte rinnovabile già a partire dall'inizio degli anni 90. E sempre sulla relazione del Presidente Ortis dell'Autorità per l'Energia, sentiamo anche il commento del Ministro dei Trasporti Altero Matteoli, al microfono la nostra Paola Cavadi. Una relazione ampia che ha messo in risalto quelle che sono le problematiche del settore, ma che individua anche le soluzioni, e le soluzioni sono quelle di ricorrere a produrre energia in un mix. Ho parlato di gas, si è soffermato molto su questo, ha parlato di fonti rinnovabili, indubbiamente tra questo c'è anche il carbone pulito, in attesa di tornare al nucleare. Provvedimento che è stato approvato dal Parlamento recentemente ci mette in condizione di poter accelerare il ritorno a questo importante sistema di produrre energia. Così Altero Matteoli, poi dopo le informazioni meteo e la pubblicità risponderemo anche un po' di sms che stanno arrivando sui temi dell'energia. Chiaramente molti di voi stanno scrivendo anche sulla dichiarazione dei redditi 2007, quelle diffuse ieri sera, e quindi questo, il fatto che metà dei contribuenti italiani dichiari di guadagnare meno di 15.000 euro lordi all'anno, e l'80% dei contribuenti italiani guadagna sostanzialmente meno di 2.200 euro lordi al mese. Ora l'80% è un po' pochino, considerati, e ogni volta tocca dirlo, le auto di lusso e dei 74.000 barche sopra i 14 metri, i 140.000, 150.000 auto di lusso sopra 50.000 euro immatricolate ogni anno. E va bene. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Alcuni di voi vogliono sapere di più del commento un po' caustico del ministro Scajola alla relazione del presidente dell'autorità per l'energia elettrica. Devo dire che l'agenzia è uscita poco prima che iniziasse la nostra intervista con Alessandro Ortis. C'è qualche dettaglio in più. Scajola si riferiva, quando ha detto che in alcuni passaggi la relazione esulato dalle sue prerogative, ai passaggi in cui Ortis ha criticato l'eccessivo potere di mercato dell'ENI, soprattutto nel mercato del gas. Benissimo, però insomma, l'autorità deve anche commentare. È normale, io penso, che le autorità sulle telecomunicazioni, sull'energia elettrica, l'antitrust e sul resto vadano a commentare l'eccesso di concentrazioni di potere. Poi uno può essere o meno d'accordo, ma non è strano che l'autorità commenti il fatto che secondo lei Eni ha ancora un potere eccessivo nel settore del gas, come poco fa ricordava lo stesso Ortis. Va bene, vedremo se poi Scajola vorrà venire nei nostri microfoni a spiegarci perché ritiene alcuni passaggi così così esulanti dalle prerogative dell'autorità per l'energia elettrica. La borsa. Abbiano un po' di pazienza quei cittadini italiani ricchi, che praticamente sono quelli che guadagnano sui 30-40 mila euro lordi l'anno, visto che sono praticamente il 20% della popolazione. Quindi i ricchi aspettino, perché adesso parleremo anche di loro, e parleremo anche di quel 50% che non arriva a 15 mila euro lordi l'anno, in cui, mi dispiace dirlo, molti lavoratori autonomi, oltre che i pensionati chiaramente. Non c'è nessun qualunquismo, però è inutile nascondersi dietro un dito: al pensionato si può credere, al diciamo lavoratore autonomo a 15.000 euro lordi l'anno, ma soprattutto quando sono così tanti. Lo 0,2% degli italiani dichiara, solo lo 0,2%, di avere più di 200.000 euro lordi l'anno, e di questo 0,2% la stragrande maggioranza sono lavoratori dipendenti, manager di industrie o manager pubblici. Solo 20.000 in tutto il paese sono i lavoratori autonomi, avvocati, notai, medici, imprenditori, chi volete voi, dentisti, gioiellieri. Solo 20.000 in tutto il paese dichiarano di guadagnare più di 200.000 euro lordi l'anno. La borsa annunciata, molto bene Intesa San Paolo, più 4,4%, Banco Popolare più 4%, Mediobanca più 3,91%, Monte dei Paschi più 3,3%, Fiat più 2,80%, Unicred più 2,5%, Mediolanum pure, come Luxottica, il 2% lo guadagna Prismian, l'1,90% Fondiaria, l'1,70% Cirma, anche Tenaris e UBI Banca. Ecco perché poi la borsa complessivamente guadagna l'1,3% e il FTSE All l'1,1%, Parigi più 1%, Francoforte più 1,3% e Londra più 0,6%. L'America sta guadagnando lo 0,20%, quindi è tutto un rialzo di matrice europea oggi. C'entra poco Wall Street. Chiedo conferma a Livia Zancaner, Radio Corriere sulle 24 ore. Buonasera Livia. Sì, buonasera. Mi confermi che le matrici oggi sono europee di questo rialzo? Sì, allora oggi infatti le borse europee sono state trainate prima dall'attesa e poi dall'annuncio dei conti trimestrali di Goldman Sachs, che sono risultati appunto nettamente migliori delle attese. In realtà però non è solo il comparto bancario che con un guadagno del 2,3% ha trainato i listini del vecchio continente, ma è stato anche il settore dell'auto, che ha guadagnato oltre il 3,3% grazie alle stime da parte di BMW sulle vendite di auto e quindi su un aumento della produzione nei prossimi 6 mesi. oltre al comparto materie prime che comunque ha contribuito alla seconda seduta sì positiva. Però diciamola tutta, su Fiat per esempio più 2,80% che torna a 7 euro per azione. C'è anche l'ipotesi che continua a girare come voce, come rumor, come quel cavolo che vogliamo noi, ma di un'offerta, di una nuova trattativa che si potrebbe riaprire con Opel, no? Sì, infatti oggi indiscrezioni stampa riportano che nelle prossime settimane Fiat potrebbe scegliere di rispondere con un ulteriore rilancio, infatti alla riapertura della partita su Opel dopo l'offerta da 660 milioni presentata la settimana scorsa da Bike. Ma lì secondo me qualcosa si sta muovendo, però vedo alcuni ascoltatori che continuano a scrivere basta con la media di Trilussa, adesso ci arriviamo, un po' di pazienza sui redditi. Dicevo, lì qualcosa si sta muovendo, Livia, perché c'è tutto un po' la stessa offerta del Ripplewood oggi respinta dal consiglio di fabbrica della Opel, ma insomma se veramente l'operazione con i canadesi, austriaci, russi, quindi il gruppo Magna fosse una buona operazione, si sarebbe già chiusa, io la vedo così, ma si sa che non ci capisco molto. Le banche? Sì, allora le banche sono state le protagoniste oggi a Piazza Affari, così come anche ieri. Allora, il comparto bancario a livello europeo ha guadagnato oltre il 2,3%, appunto sono state trainate prima dall'attesa e poi dai conti trimestrali di Goldman Sachs. La banca ha infatti riportato utili per 3,4 miliardi, un giro d'affari di 13,7 circa contro le attese intorno a 10 miliardi, quindi hanno guadagnato terreno Intesa San Paolo, Banco Popolare e Mediobanca in particolare. Unicredit ha guadagnato il 2,5% e Unicredit è stata premiata anche da un'intervista di Sergio Armotti, che è responsabile della divisione Investment Banking al quotidiano tedesco Handelsblatt, in un'intervista nella quale il manager ha annunciato che il gruppo quest'anno reintrodurrà i bonus e quindi le azioni hanno guadagnato appunto il 2,5%. Allora, qualcuno ha perso, sì, qualcuno ha perso, Buzzi Unicem per esempio il 2,6%, Parmalat l'1,2% come Campari, l'1% l'ha perso Mondadori e lo 0,80% in pregiro Eterna, ma anche STMicroelectronics e Telecom Italia. C'è un'intervista su Sole 24 Ore oggi che ha fatto rimbalzare non poco un gruppo, mi riferisco a Safilo, e anche lì ne abbiamo parlato più volte dell'operazione sul titolo, 21% di rialza oggi. Sì, appunto, quindi a riportare il gruppo sotto riflettori è stata appunto questa intervista al Sole 24 Ore rilasciata da Nicolas Berggruen. Allora, praticamente Nicolas Berggruen dice che dopo aver inviato già due manifestazioni di interesse alla famiglia Tabacchi su Safilo, dice di essere pronto ad intervenire finanziariamente per salvare il gruppo attraverso la sua holding. E appunto, secondo l'imprenditore, il problema di Safilo è di natura finanziaria e Berggruen ha detto di aver già affrontato diverse volte situazioni di questo tipo negli investimenti, quindi lui dice di aver proposto una fusione con la sua società che però tenga separati i due gruppi, quindi nella produzione, distribuzione e nel management. Per questo il titolo ne ha beneficiato appunto guadagnando oltre il 21%. Su Buzzi Unicem invece, tornando ai titoli maggiori, c'è anche una notizia diciamo di mercato, ecco perché il titolo va a 9,26 euro. Sì, allora gli analisti di Goldman Sachs hanno abbassato il prezzo obiettivo sul titolo a 8,9 da 9,4 euro e il titolo ha chiuso a 9,26 euro e hanno confermato comunque il giudizio vendere. E secondo Goldman Sachs infatti nel secondo trimestre proseguirà nel settore del cemento il trend debole che è già stato visto nel corso dei primi mesi del 2009. Inoltre bisogna sottolineare che le azioni Buzzi Unicem dal 1 luglio, cioè la data in cui le borse hanno riniziato a scendere, ha ceduto circa il 10%, mentre ha fatto meglio la concorrente Italcementi che ha ceduto invece un 4,3%. Grazie, buona serata Livia Zancanera, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso, dopo l'informazione per chi è in viaggio, parliamo dell'operazione lanciata oggi da Banca Intesa assieme alla CEI per dare sollievo alle famiglie più disagiate. Tra l'altro interessante che Monsignor Mariano Crociata, che è il segretario generale della CEI, abbia detto sì, vediamo con fiducia segni di ripresa, ma purtroppo la crisi, la parte più critica della crisi deve ancora arrivare, si riferiva chiaramente all'impatto anche sociale di questa crisi, e la mettiamo assieme alla dichiarazione dei redditi. Mi dispiace che ci sia qualcuno che si secca perché dice la terza volta che vi fate riferimento nell'arco di 40 minuti, e sì, ogni tanto lo facciamo, ogni tanto parliamo anche di evasione fiscale e di dichiarazione dei redditi. Portate pazienza. (Ride) 17:49 minuti, vabbè, vedo che i messaggi sono anche pesantini. Allora, facciamo così, la media è una media, mi riferisco alla dichiarazione dei redditi 2007 pubblicate oggi, anzi pubblicate ieri sera e oggi sui giornali. È chiaro che in questo momento la situazione sarà ancora peggiore, perché molti lavoratori autonomi, artigiani, piccoli imprenditori, commercianti, lo abbiamo detto decine di volte, sono in estrema difficoltà, non tanto sul fronte consumi interni ma su altri generi di consumi sì e di vendite sì. Però detto questo, col massimo rispetto verso chi veramente ha difficoltà a arrivare a fine mese, ha attività autonome in cui probabilmente il reddito lordo è attorno a questi 15.000 euro che rappresentano un italiano su due, detto questo, attenzione, perché non è pensabile che un paese come il nostro, con i dati che adesso vi racconteremo, veda un lavoratore su una dichiarazione di redditi su due a 15.000 euro lordi e in generale l'80% dei contribuenti dichiarare 26.000 euro lordi l'anno. È un insulto per chi li guadagna veramente questi 15.000 euro lordi, per chi è veramente in difficoltà, per i pensionati, per i lavoratori autonomi, per gli artigiani, per i commercianti, per tutti quelli che invece a quel livello purtroppo restano. Il resto invece si chiama evasione. La scheda. E almeno questa volta non diciamo che è colpa della crisi. Le dichiarazioni dei redditi da cui emerge che un italiano su due dichiara al fisco meno di 15.000 euro lordi all'anno sono infatti relative al 2007, quando le difficoltà dell'economia e della finanza dovevano ancora palesarsi. Come se non bastasse, 80 contribuenti su 100 non arrivano a 26.000 euro lordi all'anno, il che significa meno di 2.200 euro lordi al mese. Vere e proprie mosche bianche sono invece i paperoni. Solo lo 0,2% della popolazione, poco più di 75.600 contribuenti, denuncia al fisco un reddito superiore a 200.000 euro lordi all'anno. Di questi, circa 43.000 sono lavoratori dipendenti e 20.000 autonomi. Senza tanti giri di parole, è chiaro che questi dati sono anche il frutto di un'evasione che non conosce livelli simili nel resto d'Europa. E sembra ormai un esercizio sterile ricordare che le auto classificate di lusso a fine 2007 erano quasi 1 milione. Da queste cifre risulta che il reddito medio in crescita del 3% sul 2006 si attesta a 18.892 euro lordi annui. In pratica 1.453 euro lordi mensili, considerando anche la tredicesima. Le statistiche del Ministero dell'Economia si soffermano anche sulle dichiarazioni delle persone giuridiche. Quasi una società di capitali su due dichiarava al fisco di essere in perdita. In termini assoluti, 520.000 le società in attivo e 419.000 in perdita. Infine, la geografia dei redditi dichiarati al fisco. Si conferma un'Italia spaccata in due, con la Lombardia in testa con una media di 22.460 euro, quasi il doppio del fanalino di coda, la Calabria, con 13.410 euro. Secondo posto dietro la Lombardia, il Lazio, con poco più di 21.100 euro. Seguono Emilia-Romagna e Piemonte. Allora, questi dati sono relativi al 2007. Per aver detto che non è possibile avere 140.000 barche a vela sopra i 15 metri, 1 milione di auto di lusso e allo stesso tempo avere 20.000 lavoratori autonomi che dichiarano più di 200.000 euro l'anno e 40.000 euro e 40.000 lavoratori dipendenti che dichiarano la stessa cifra. Per aver detto questo, dunque, leggo Barisoni sbirro mancato. Un altro messaggio: si pulisca la bocca e la lingua prima di parlare, questo mese ho incassato il 50% in meno rispetto a un anno fa, un tassista. Allora, nessuno sta dicendo che nel 2009 non ci siano enormi difficoltà, abbiamo fatto decine di puntate su questo, abbiate pazienza, ma si può dire che accanto alle categorie anche autonome che sono in estrema difficoltà, ripeto, tutti piccoli, gli artigiani, i commercianti e quant'altro, c'è anche un'evasione che non conosce livelli simili nel resto d'Europa? Boh, secondo me sì. Vabbè, andiamo sul propositivo e positivo. L'accordo Intesa San Paolo con la Confederazione dei Vescovi Italiani per un microcredito alle famiglie in estrema difficoltà. Seguendo l'accordo ABI, Intesa San Paolo erogherà poi un massimo di 6.000 euro per ogni famiglia indicata dalla Caritas, in modo che possa coprire le spese importanti per i figli, come salute, studio e tempo libero. Lo hanno annunciato oggi, da un lato il numero uno di Intesa San Paolo, Corrado Passera, dall'altro invece il segretario generale della CEI, Mariano Crociata. Sentiamo Corrado Passera. Ci sono quasi 25.000 casi di famiglie che direttamente o indirettamente stanno con noi con meccanismi di microcredito. Però noi pensiamo che sia un caso, quello del microcredito, dove l'accompagnamento faccia la differenza, perché il linguaggio delle persone di cui che ne hanno bisogno e dell'istituto bancario molto spesso è diverso, perché la non competenza da parte della banca nel capire, nel valutare l'affidabilità di talune persone che non hanno lo scoring, perché qui stiamo parlando in molti casi di famiglie che non ce l'hanno un meccanismo di valutazione standardizzato, ma nello stesso tempo la non conoscenza delle famiglie nei confronti delle banche. Ecco, ci vuole un mediatore che conosca la banca, che abbia l'attitudine, che abbia la disponibilità all'ascolto, che abbia la voglia di dedicarsi a inventare un meccanismo che non è un meccanismo di beneficenza, non è un meccanismo neanche di solo credito, è un meccanismo di credito tagliato su misura per queste necessità. L'idea è di mettere a disposizione dell'iniziativa del prestito della speranza fino a 100 milioni che cercheremo di utilizzare al meglio. E quindi la Caritas, come diciamo strumento, elemento per indicare a Intesa San Paolo quali famiglie, per scegliere le famiglie maggiormente bisognose, non avendo uno scoring, come ricordava Corrado Passera, e avendo solo lo scoramento, se vogliamo fare un gioco di parole. La situazione, anche vista dal punto, dalla prospettiva della CEI, quindi le parole di Monsignor Mariano Crociata al microfono della nostra Cristina Fei, sulla crisi, Crociata dice, qualche segnale di miglioramento c'è, ma il peggio potrebbe ancora arrivare. Ci stiamo accorgendo che, pur vedendo con fiducia i segni di ripresa che ci sono, che purtroppo la crisi persiste e anzi rischia di avere proprio nei prossimi mesi il momento più critico, e dunque la firma di questo contratto è un'iniziativa di microcredito basato su una colletta nazionale che produrrà i suoi frutti grazie alla disponibilità delle banche, di questa banca in particolare, Intesa San Paolo, e la possibilità a tante famiglie di avere un sostegno per uno o due anni e per superare la crisi. E noi tutte queste iniziative continueremo a segnalarle, quelle rivolte alle famiglie meno abbienti, alle piccole imprese. Abbiamo parlato anche di Unicredito, di Intesa, di altre iniziative, dando spazio a tutti, però non lasciando passare nulla. Questo lo dico in merito alle polemiche e di questa giornata per parlare della dichiarazione dei redditi. Non è un paese per ricchi, questo l'abbiamo scoperto grazie all'Istat. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.